magari c'è quel muraglione o cos'è, questa montagna che fai da razzi. Adesso mi carico la macchina, sono arrivato nel piazzale, va. Ci sentiamo alle prossime, Alessandro. Ah, raga, dai, già siamo qua se vuoi come entri a saggio, dai. Va bene, vai Victor. Attenzione, canale 21. Hola, attenzione, canale 21. Hola. Attention, s'il vous plaît, c'est que tu vas sortir. Molino, Molino, ci sei. Hola. Attenzione, bambolino, mi ascolti? Bambolino, mi stai ascoltando? Prova a parlare se ti ascolto, gavo. Tornare. Hola. Attenzione, canale 21. Avanti, bombolino, se mi ascolti, Cappa che ti ascolto già. Il rientro a Pappartago, passo sotto casa tua, ci proviamo una sigaretta e poi me ne vado, Ho capito già, cosa hai detto? Ecco, Alessandro, il rientro a Pappartago, che passa a casa tua, sotto casa tua, scendete, mi ci fumiamo una sigaretta e poi me ne vado. Cappa. Hai copiato? Sì, già ho copiato già. Quando rientro passo sotto casa tua, vedo. Se vuoi piacere a fumare una sigaretta poi me ne vado. Cappa, cappa. Vabbè. Va bene. Aspetta che c'è la Spagna, attento mio hermano della Spagna, se va a scursiare l'isola della Sardinia, adelante ve lo comprendito. Attento sud delle spalle, la scursia la Sardinia, adelante! Danara, avanti a tu! Cappa! Dove sei? Lì a Porto Torres, se sei! Io sto salendo là! Sto partendo! Cappa, forte e chiaro qua! Adesso si apre la propagazione! Ma a me non mi fa niente perché sono forte via radio. Invece stasera c'è un bel QRM, stasera c'è il QRM. Invece dopo pranzo si stava bene, ma stasera c'è il QRM. Quando è? Poco fa ero sul 25 e c'era questo qua che mi arrivava un bel forte dalla Spagna. Tanto io una volta dalla Spagna ho fatto praticamente partendo da Porto Torres, se si da Sassari mi ha accompagnato uno spagnolo. Cappa. Attento mio hermano delle Spagne, la scussia la Sardinia, delante me lo comprendito per favore. Cappa di casa giuria chi sa, no, è roba di Spagna, no già. Ma è lontanata, non si capisce, capito? È lontanata, ti possono fregare perché non si capisce bene la voce. Cappa, ma quella lì non era roba di Spagna, no? Roba di caffonaggi, nera. Quella che ho copiato io qua non è roba di Spagna, quello è poco ma sicuro. Tu non l'hai sentita tu, era più vicino forse in linea d'aria a Porto Torres. Tu non lo sentì, ma era spagnolo quello che ha chiamato poco fa. No, io quello già ho sentito. Troppo vicino sogo. Ma non è lo sta facendo. No, ma è gente su un'altra cosa. E cosa? Per una chieta. L'ho sentito anche io, infatti dentro un campanello di casa tua, non l'avevi sentito. Ma sì che non sa cosa va. E lasciamo fare, nel primo momento ho pensato che fosse Pierpaolo, poi ho capito che non era lui. Pensavo che stesse scherzando tuo padre. No. Cappa. E la qua con me ascolti, Cappa! Santiago Ove sei qua. Va bene, va bene. Oh yeah, che giornata oggi, meno male finita. Raga, andava su sabato. Vabbè. Cosa stavo dicendo? Mia moglie mi ha detto che stavo russando, proprio si vedeva che ero un bastante. Ho capito già. Stavo pranzo, mi sono custodiato il letto matrimoniale, mi sono messo a gambe larghe, mi sono addormentato russando come un maiale. Stanco morto ieri. Infatti mia moglie ha detto che non c'è nato nemmeno, ha letto a pranzo per non disturbarmi. Perché se no mi disturbava che stavo russando come un drago. E cappa, purtroppo quella malattia lì capo ti fa addormentare un bene. Non è la malattia, non c'è il travaglio, tu, che hai travagliato come più nane, luce. E cappa già, ma per un po' tutto bene. La malattia già fa il suo corso, però non è solo la malattia. Già lo so. Ma ti fai dormire un bel quando c'hai i valori sballati, capito? Allora dormi un bel. Lo so già, purtroppo. Il lavoro è quello. Adesso non ti sento più, Antonio, sono agli allo. Mi senti più? Ti sento, ma non si capisce cosa dici, Antonio. Non si capisce cosa dici, aspetta adesso che giro e poi ti riprendo, va. Cappa, guarda per se mi senti adesso. Adesso forte è chiaro. Yeah. All'ultimo di chirria. Ci vuole. Cappa. Così c'è più chiaro di radio di tutto, eh. Uscire forti di radio è quello che significa per riuscire a aiutare un po', anche un segnale basso l'aiuti, eh. Non credo. La radio è quello che conta, vabbè anche il segnale già conta, perché aumentando il segnale ti aumenta anche la radio. Beh, già lo credo. Perché quando tu per dire attacchi un lineare ti aumenta anche la radio. Kappa, ma io di chissà cosa non nasce, c'ho solo la radio normale. Lo so, ma io sto dicendo in generale, no? Cosa collegheggi, no? No, Iuia. Va bene, già va bene. Anto, ma parli da lei il vicino, non è il vicino al tuo palazzo? Cosa? Qualche palo da lei, in Italia, li vidi e si attacchi l'antenna. per un baro della cosa, dell'illuminazione stradale. Ora dove avevamo messo le telecamere hanno scavato gli spacciatori. Non t'andava chiuso. Guarda, metto al telegiornale che praticamente ho i carabinieri e la polizia e va messo le telecamere in un lampione che c'era a te dolce, dove c'erano tutti gli spacciatori appoggiati. E li ha visti proprio, li riprendeva mentre spacciava, guarda per casa di tutti. Quando mai? Le telecamerine li hanno messe sopra. E sono a scena, so. Di tutti rimanere ne combina, ne occhi. Non so se te l'ho mai raccontato di quella consegna che dovevo fare in un posto, che mi hanno detto che era controllato quello lì di non fare mosse false e cose, di consegnare la roba e andarmene. Pagappa. Chi era uno spacciatore, era controllato, magari pensavano che stesse dando la roba, raddando la roba a me. Per carità. E io devo portare un mobile a casa, l'hai pagato, quindi ho fatto il mio lavoro. Beh, certo. Poi mi hanno raccomandato di consegnare il mobile e andare via, senza far vedere magari cose strane, cose magari che potevano dare sospetti, capito? Perché questo qui era super controllato, c'era la telecamera, era quello di fronte, figura di tu. Kappa, che mi avevi raccontato, per carità. Ho già canto bene di chi sa niente. E allora se poi si sono abbassati, ma non avrei dato quella telecamera, ma ci si è abbizzato. Tu se lo sa. Sabu, se l'aria condizionata si è abbassato di serraglia, chi me l'ha detto chi sa ucci. Ma davvero se si è reso conto che c'erano. Speriamo che non si sia reso conto, se no a me poi mi fanno gli spiti. Santiago 9 Radio 5. Bene, mi senti già da lì? Nove sei tu. Cappa, una bomba, Ah, sei 9. Adesso mi fra poco sono al messaggio delle roulotte. Lusso, di lusso. Guerra. Bisogna accontentarci. Chi è avanti? Il carabiniere di Adela. Ah, è lì! Cosa c'è? Cosa c'è? E come ascolti a me? Come ascolti? Basso, Santiago 3. Buttaci via l'antenna, non serve a niente. Come già lo so che l'antenna non serve a niente? No, vabbè, è lui che è coperto. Lui che c'è l'antenna a introgarla. Oh, l'antenna è nuova, l'ho vista io, solo che lui che è... cioè l'antenna più che altro non è molto alta come deve essere. L'antenna è piazzata lì l'antenna. Issio. Ti ho offeso. Si doveva offendere, assolutamente. Ehi, come che stava buffonando? Oh, vabbè, arriva per quello che può. Giustamente, per farlo uscire bene... cioè deve averla sul tetto, però bisogna accontentarsi, dai. Deve essere bruciato tutto. No. È mancata la luce. Ah sì. Oh, ia. Dove l'ha piazzata l'antenna? Quale? Sì. No, l'ha piazzata tramite un coso di un balcone, così, e poi l'ha tirata su, cioè. Una cosa così poi se la farà meglio, ma è nuova nuova. Ma si è comprato la Grand Prix? Sì, la Grand Prix. Porca vita. Ora mai sono passate come antenne le Grand Prix. Cosa c'entra già? Noi siamo attesi. Escono bene, ma lo sai cosa c'è? Che disturbano un bel televisore. Non lo so se è la sua disturba, ma la mia, la Lemme, disturba un bel. Sì, ho già. E che cosa mi ti dica? Sono fatte così perché hanno il radiale in basso un po', ma cioè alla fin fine cioè, quella lì è l'antenna media per la 27, dai. No, già va anche bene, ti fai anche 10 con la Gran Prima. Andava fa tutto, andava. Io l'ho avuta per tanti anni, arrivavo anche forte al ghiero, tutto quanto. Solo che l'unico difetto che aveva che disturbava questo qua del palazzo, una persona ma la disturbava di tutto. E questo qua era stato ingessato per un incidente, stava mattina e sera attaccato al televisore, non potevo durare né la mattina né la sera. Ma di che tempi siamo va vedendo? Stiamo parlando dei tempi che anche molta gente disturbava anche con le antenne, con le mantove, con le cose. Stiamo parlando di tempi che le televisioni erano quelle, gli impianti erano quelle, stiamo parlando di altri tempi. Adesso non lo so se è la stessa cosa con digitale terrestre, sta questa cosa qua. Raga, vanto a scegliere che ci fumiamo una sigaretta e poi me ne vado. Sì, già ho visto. Quello è già, quello, che adesso sono altri tempi, adesso magari la Grand Prix funziona come tutte le altre. È un'ottima antenna perché è media, arrivi in Arugu. Lo so. Ai tempi che furono era un top 1000 Grand Prix. Allora, è attenzione delle grandi antenne, cioè, nei tempi che furono è stata la Lemme a togliere queste antenne molto buone. Sì, quelle della Lemme senza dubbio anche erano, le Grand Prix migliori erano quelle della Lemme. Vabbè, anche la Sirio sono molto molto buone. No, Sirio non le conosco, io conosco la Lemme e la Sigma. Ah, Grand Prix della Sirio, non l'ho mai vista, io già l'hai vista. Non so, no, mi sa di no. Io già l'hai vista. Io fara che ti vuole una sigaretta che ci dobbiamo innamorare. No, pagata, aspetta.